2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi la puntata del 27 settembre 2014. Benvenuti o bentornati a 2024, il programma dedicato alla tecnologia di Radio 24. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Aggiungiamo anche Facebook e Twitter se volete comunicare con noi. C'è un grande interesse in giro per il mondo per le tecnologie che si basano su dati biometrici per identificare un soggetto. Il sistema più popolare è l'impronta digitale, che ormai è utilizzata su molti smartphone, in primis dagli iPhone, ma non solo, ma si lavora su altre soluzioni che facciano superare il concetto di password e di accoppiata user ID e password, che è una delle più grandi scocciature della rete internet e anche uno dei più grandi problemi di sicurezza, perché quando ci si dimentica, o meglio, quando si vuole costruire una password molto semplice, c'è il rischio che poi questa password venga rubata. Poi anche in alcuni casi in cui la password è complicata, ci sono persone in grado di rubare queste password e magari entrare nei sistemi. Poi ci sono anche sistemi come quelli che vengono utilizzati dalle banche di one time password, quindi quei portachiavi con numeri che cambiano molto velocemente, che aumentano la sicurezza. Comunque il problema delle password rimane uno dei grandi problemi irrisolti e ci sono molti che stanno lavorando alla soluzione. Ci sono varie ipotesi. Il Financial Times ha scritto pochi giorni fa di uno scienziato australiano, Stephen Mason, che ha ideato un sistema che si basa sull'analisi della cornea. Sapete che oggi ad esempio c'è la scansione della retina, in questo caso è un po' diverso. Allora, l'occhio diventa la nostra password, ma pare che sia un sistema molto efficace. Allora, uno scanner analizza la mappa della cornea, che è diversa in ogni persona. Si basa su una mappatura che non è solo limitata alla cornea, ma si basa anche sulla lacrimazione, secondo uno schema che è tipico di ognuno. Quindi se anche un hacker dovesse riprodurre la nostra cornea, sarebbe quasi impossibile riprodurre pure la lacrimazione naturale dell'occhio che il sistema riconosce, quindi sarebbe infallibile. Però questa è un'idea ancora non molto avanzata, cioè solo un'idea. Allora, un altro progetto molto avanzato è quello che sta portando avanti, ne avevo sentito parlare qualche mese fa, poi avevo lasciato perdere. Allora, la canadese Bionim ha raccolto, pensate, 14 milioni di euro e lancerà a breve sul mercato un braccialetto in grado di identificare una persona tramite il battito cardiaco, che è diverso da ogni persona. Allora, fa una specie di elettrocardiogramma questo braccialetto, potrà essere connesso con vari sistemi, il primo utilizzo naturalmente è con lo smartphone, quindi servirà per sbloccare lo smartphone o alcune applicazioni, tutto si connette tramite Bluetooth, ma possiamo pensare a mille altri usi, che ne so, uno va al bancomat e se il bancomat venisse abilitato a questo sistema, uno appena si avvicina al bancomat, il bancomat riconosce questa persona, perché il braccialetto comunica col bancomat e dice: guarda, questa persona effettivamente è quella che dice di essere, perché la corrispondenza è univoca. Quindi si possono pensare a mille altri sistemi per aprire l'automobile, per sistemi di pagamento, eccetera, eccetera. Allora, Bionim ha già raccolto quasi 9.000 preordini, siamo a 8.800 per questo bracciale che si chiama Nimi, e che per ora costerà, in promozione costa $79, diventeranno $99 alla fine della promozione. Sul sito c'è scritto che le consegne sono previste per metà 2014, la metà l'abbiamo già superata, vedremo se cominceranno a spedire questi braccialetti. Il tutto è molto ed estremamente interessante, perché questa è una prospettiva, è un po' come il settore delle batterie. Se c'è qualcuno che riesce a inventare una batteria che dura più di qualche giorno per uno smartphone, pur nella leggerezza ormai richiesta dagli smartphone, fa bingo. Prima delle nostre Digital News, una notizia che riguarda la prossima settimana. Il 2 e 3 ottobre a Milano si terrà una riunione informale del Consiglio europeo sulle telecomunicazioni. Durante questa riunione dovrebbe essere affrontato anche il tema del roaming. Sapete che la Commissione e il Parlamento hanno approvato uno schema che prevede che il roaming venga cancellato, ma visto che ancora non se ne è occupato il Consiglio europeo, il tutto è lì sospeso. Allora, una ipotesi su cui si sta lavorando, e ci sta lavorando l'Italia, visto che siamo presidenti di turno per questi 6 mesi, è un roaming zero fino ad un certo punto, cioè fino ad un certo tetto di minuti e di dati, per evitare abusi. Allora, perché il problema qual è? Si sta pensando di evitare che si crei un mercato di SIM provenienti da paesi dove il costo della telefonia mobile è più basso, come ad esempio i paesi dell'est, perché potrebbe succedere il caso paradossale che se si crea il roaming zero, io prendo una SIM di un paese dell'est, adesso faccio un esempio così puramente casuale, tipo la Bulgaria, e poi la utilizzo normalmente in Italia, tanto il roaming è zero, quindi pago però con la tariffa bulgara. Questo creerebbe una serie di problemi, effettivamente potrebbe esserci questo rischio che si chiama arbitraggio delle SIM, e allora si sta lavorando ad un tetto. Bisognerà vedere quant'è il tetto, perché se è un tetto ragionevole, magari io per una settimana, 15 giorni di vacanze in giro per l'Europa non ho grossi problemi. Se invece il tetto è molto basso, beh, invece questo sarebbe naturalmente un favore alle società di telecomunicazioni. Si affronterà il problema il 2 o 3 ottobre, ma sicuramente non si prenderà una decisione definitiva. Adesso le nostre Digital News. Digital News. Il TAR del Lazio ha rinviato alla Corte Costituzionale il regolamento dell'AGCOM sul diritto d'autore. Tutto ciò dopo il ricorso presentato da Altro Consumo, Movimento Difesa del Cittadino, Asso Provider e Assintel. La procedura prevede, ne abbiamo parlato anche 2024, prevede che l'autorità, l'AGCOM, possa agire sui gestori dei siti web senza alcun ricorso alla magistratura quando riceve una segnalazione di infrazione della legge sul diritto d'autore. Quindi solitamente per queste cose la legge italiana prevede che se debba essere il giudice a decidere, prendere una decisione definitiva. Vedremo tutto ciò dove porterà e vedremo quale sarà la decisione della Corte Costituzionale, ma la cosa strana è che tutti festeggiano, sia quelli che avevano promosso questo regolamento sul diritto d'autore, sia quelli che lo contestavano. Vedremo che cosa dirà la Corte Costituzionale. Il 2 ottobre inizieranno le trasmissioni di Giova TV, il nuovo canale televisivo via web di Jovanotti. C'è molto interesse su questo esperimento, su questa novità che riguarda la rete internet. Digital News. Pare che 6 aziende cinematografiche di Hollywood abbiano ottenuto il permesso di girare film con i droni dalla Federal Aviation Administration, che è l'agenzia federale che si occupa del volo negli Stati Uniti. La notizia è interessante perché negli Stati Uniti, a differenza che in Europa e anche in Italia, l'uso dei droni è pressoché vietato, a parte alcune eccezioni. Questo potrebbe essere un primo passo verso l'apertura del mercato. In Europa e anche in Italia c'è sì un regolamento, che in alcuni casi può essere anche restrittivo, ma comunque c'è un regolamento. Se uno lo rispetta, può far girare droni dove più o meno dove vuole. Digital News. È disponibile anche in Italia lo smartphone prodotto dalla finlandese Jolla con sistema operativo Sailfish. È uno smartphone molto interessante, indipendente, con un sistema operativo che non è né iOS né Android, sul quale però possono essere installate quasi tutte le applicazioni Android. Digital News. Anche BlackBerry, a proposito di sistemi operativi alternativi, ha lanciato un nuovo smartphone, il nuovo Password, che si distingue sicuramente, da questo punto di vista è una novità, però si distingue per avere uno schermo quadrato, un bello schermone da 4,5 pollici, tastiera fisica. È pensato soprattutto per chi scrive molto, per chi lavora e per le aziende. Secondo AudiWeb, le persone che si sono collegate ad internet a giugno sono 28 milioni. Il 58% del tempo speso online riguarda terminali mobili, quindi l'accesso da smartphone o tablet supera quello da PC. E c'è ancora chi non ha capito che il mobile è la nuova frontiera, bisogna sviluppare siti soprattutto e prima di tutto per mobile, poi si pensa anche al resto, ma molti ancora non hanno capito. Tra poco sarà con noi Gianfranco Giardini, il direttore del magazine digitale dday.it, per parlare di audio multiroom. Parleremo anche di wifi negli alberghi. Un'altra notizia che aggiungiamo alle nostre digital news riguarda iPhone, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, così si chiama quello più grosso da 5,5 pollici. Allora, da questa settimana sono disponibili anche in Italia con prezzi che spaziano da 729 a poco più di 1000 euro. Ci sono però delle possibilità, ci sono siti internet, anche D-Day.it ha fatto una bella classifica, un bello schema per capire se e quanto costa comprarlo tramite operatore, da 20 a 80 euro a seconda del modello, dei tagli, di quanto traffico ho a disposizione, ma attenzione perché in questi casi ci si lega per 30 mesi, quindi bisogna fare un po' i conti, ma questo vale un po' per tutte le offerte per tutti gli smartphone, quando si prende smartphone e connettività assieme. Apple ha presentato questi due prodotti, li abbiamo commentati anche a 2024, confermano la elevata qualità costruttiva che conosciamo di Apple, anche se negli Stati Uniti c'è stata una piccola polemica, direi che poi tutto si è risolto in poche ore, perché c'è chi, dopo aver tenuto in tasca uno smartphone, quello più grande, il Plus, per parecchie ore e dopo essersi seduto sopra il telefono, ha detto che il modello da 5,5 pollici si piega. Allora, Apple in realtà ha detto di aver ricevuto la segnalazione di soli 9 casi in tutto il mondo, poi ha anche mostrato tutto quello che viene fatto nei laboratori e effettivamente uno si domanda, possibile che vengano fatti errori di questo tipo, ma insomma un po' di panna montata anche in questo caso è stata montata. Invece ci sono stati problemi sull'aggiornamento di iOS, ma adesso è stato proposto l'8.0.2, quindi se fate questo aggiornamento tutti i problemi che c'erano su alcuni terminali sono stati risolti. Adesso cambiamo argomento, parliamo di diffusione della banda larga, di banda come viene definita oggi ultra larga. Sapete che a fianco alla fibra ottica, che continuiamo a dire dovrebbe essere il collegamento che dovremmo utilizzare in tutte le abitazioni con un progetto nazionale di ampio respiro, ma assieme e a fianco a questo progetto le nuove tecnologie permettono di utilizzare il vecchio doppino di rame portando la fibra ottica agli armadi di strada. Dagli armadi di strada poi la rete con il vecchio doppino telefonico arriva in tutte le case, perché in effetti quel doppino c'è già. Questo permette alle società e soprattutto a Telecom Italia e a Fastweb, che stanno facendo progetti in tutta Italia, di risparmiare sul costo di infrastruttura, portando comunque la rete a performance sicuramente molto interessante per questi anni, per l'utilizzo che viene fatto di internet in questi anni. Fastweb in settimana ha annunciato un piano di estensione del proprio programma di diffusione della banda ultra larga da qui al 2016. Ne parliamo con Federico Ciccone, che è il direttore delle strategie di Fastweb. Benvenuto a 2024, Ciccone. Grazie a lei, buongiorno dottor Pagliarini. Dove e come verrà estesa questa copertura? Beh, il piano prevede una copertura totale tra due anni di 7 milioni e mezzo tra famiglie e imprese, circa il 30% della popolazione. Il piano è stato annunciato coerentemente con quello che è stato annunciato due anni fa. Noi abbiamo intrapreso questo nuovo progetto due anni fa, iniziando con una prima fase che ha avuto un grandissimo successo. Noi abbiamo coperto ad oggi 3 milioni e mezzo di famiglie e imprese con questa nuova tecnologia, che si aggiungono alle 2 milioni di famiglie coperte in FTTH. Visto il successo sia commerciale che tecnologico di questa nuova rete, abbiamo deciso di andare oltre nei prossimi due anni, e noi con il nostro azionista abbiamo deciso di lanciare questo nuovo piano per raggiungere oltre 100 comuni entro fine del 2016. Quando parliamo di 100 comuni stiamo facendo riferimento a che tipologia e in che aree del paese? Tutta Italia? Sì, noi abbiamo l'obiettivo di coprire i principali 100 comuni. Tenga conto che già come stiamo facendo adesso, questi sono i principali centri di aggregazione, ma vuol dire anche i comuni satelliti di queste principali città metropolitane. Quindi in realtà i comuni sono ben di più. Come avevamo annunciato circa due anni fa l'obiettivo di raggiungere 20 comuni, noi adesso, che sono i principali, noi adesso abbiamo, contandoli, siamo già quasi a 40, proprio perché intendiamo questi comuni in termini di area metropolitana estesa. Quindi ci sta dicendo che mentre fino a qualche anno fa alcuni operatori dicevano non c'è molta domanda di internet, in realtà le cose sono cambiate, quindi laddove ci sono servizi i clienti si abbonano a questi nuovi servizi, mi sembra di capire. Esattamente, noi abbiamo visto che quando c'è la tecnologia abilitante, il servizio a banda ultralarga, i clienti la vogliono e ce la chiedono. Noi abbiamo raggiunto oggi, dopo i 2 anni di progetto, un totale di 450.000 clienti collegati in fibra, che rappresentano circa l'80% del mercato dei servizi a banda ultralarga in Italia. E questo significa che i clienti la cercano e la desiderano. Sì, quando lei parla di clienti collegati in fibra, parla sia di quelli ai quali la fibra, i più fortunati, arriva direttamente in casa, ma anche quelli che utilizzano questa nuova tecnologia mista fibra più rame, giusto? Corretto. Prececone, adesso ci fermiamo per un minuto, poi le faccio spiegare che cosa significa fiber to the cabinet o fiber to the street, perché è estremamente interessante capire come funziona. A tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Stiamo parlando del piano di Fastweb per estendere la fibra ottica oltre alle centrali. Allora, come abbiamo detto, ci sono purtroppo una parte esigua di abitazioni e di aziende in Italia che sono raggiunte direttamente dalla fibra ottica. In altri casi invece la fibra ottica si spinge fino all'armadio di strada, poi da lì parte e rimane il vecchio doppino di rame che arriva nelle abitazioni. C'è chi la chiama fiber to the cabinet, quindi l'armadio, il cabinet, oppure fiber to the street, perché arriva lungo le strade delle città. È con noi Federico Ciccone, che è direttore delle strategie di Fastweb. Allora, Ciccone, spieghiamo di che cosa si tratta, come funziona questa tecnologia. Vuol dire arrivare con la fibra fino a circa 200-250 metri dalla casa del cliente e riutilizzare, grazie alle nuove tecnologie molto più potenti che installiamo negli armadi di strada, utilizzare gli ultimi metri del doppino in rame. Questo permette una maggiore rapidità di diffusione, un minor fastidio per i comuni e per le famiglie senza dover entrare a casa dei clienti e di sfruttare quella che è una peculiarità della rete in rame italiana, che ha una distanza media dall'armadio stradale alla casa del cliente estremamente corta e quindi le nuove tecnologie permettono di raggiungere velocità molto elevate. Nell'ordine di quanto? Noi adesso vediamo circa 100 megabit al secondo. Tenga conto che anche qualora un utente fosse lontano superiamo i 70 in media. Bene, Ciccone, la ringrazio per essere stato con noi, a presto, buon weekend e buon lavoro. La ringrazio, arrivederci, buon weekend anche a lei. Questo è quello che fanno gli operatori privati, soprattutto nelle aree dove c'è un ritorno degli investimenti, abbiamo sentito in questi 100 principali comuni, ma visto che di comuni ce ne sono più di 8.000, quasi 9.000 in Italia, noi continuiamo a dire che lo Stato dovrebbe farsi carico di investimenti, in parte lo sta già facendo, ma in modo molto sfumato in alcune aree del paese, ma soprattutto spendendo soldi a beneficio degli operatori privati che portano la rete nelle aree a fallimento di mercato. Continua a dire che invece un progetto di una società della rete che si occupi dell'infrastruttura del futuro, perché qui stiamo parlando di una infrastruttura che stanno portando avanti gli operatori privati, che va benissimo per oggi, per anche ancora qualche anno, ma se noi pensiamo da qui a 10-20 anni è fuori di dubbio che ci vuole fibra ottica in tutte le case, in tutti gli appartamenti, in tutte le aziende, questo lo dicono tutti gli operatori. E allora un investimento di questo genere lo può fare un imprenditore come lo Stato, che avrebbe anche un ritorno sul capitale nel medio-lungo periodo, ma di questo abbiamo parlato più volte, torneremo sicuramente a parlarne anche prossimamente. Adesso cambiamo argomento, parliamo di Wi-Fi negli alberghi. Molti clienti ritengono che il Wi-Fi debba esserci, debba essere gratuito e debba funzionare. che non è una cosa scontata, e funzionare bene. E oramai lo considerano una commodity, una cosa che ci deve essere nell'hotel, così come esiste il bagno e gli asciugamani. Però non è così, eh? Purtroppo nel nostro paese, che ha una vocazione turistica molto forte, in questo non siamo molto bravi. Certo, alcuni albergatori diranno altre spese che dobbiamo fare per offrire un nuovo servizio ai clienti. Saluto Flavio Ghiringhelli, che è Managing Director di HRS Italia. Benvenuto a 2024, bentornato Ghiringhelli. Grazie a lei per l'opportunità. Ricordo che HRS è un portale di prenotazione di hotel numero uno in Germania, uno dei big player mondiali. Voi anche quest'anno avete fatto una classifica, guardando i dati a disposizione nel vostro database, sugli hotel che offrono Wi-Fi, sia gratuitamente sia a pagamento. Allora, diamo subito un'occhiata a questa classifica. Qual è la situazione in generale e a che posizione è l'Italia? Svezia, Turchia e Olanda sono le nazioni con la più elevata concentrazione di hotel che offrono la connessione Wi-Fi gratuita. La Svezia si pone al primo posto, come abbiamo detto, con oltre l'85% degli alberghi con gratuità Wi-Fi. La Turchia subito a ruota con l'84,8% e l'Olanda con l'80,7%. L'Italia purtroppo si trova solo al 18° posto, con una penetrazione pari al 58,5%. Quindi, guardando a questi numeri, ci sono più del 40% degli hotel in Italia che non hanno connessione Wi-Fi gratuita. È interessante il dato, magari uno non si sorprende del dato della Svezia, ma invece è interessante il dato della Turchia, paese giovane che cresce economicamente molto. Al di là delle vicende politiche, c'è tutto un mondo economico che cresce e noi forse non ce ne accorgiamo a sufficienza. Molti imprenditori italiani se ne sono accorti. Non ci si stupisce dell'Olanda. Al quarto posto invece c'è la Polonia, anche questo paese giovane in forte crescita. L'80% degli hotel ha Wi-Fi gratuito. Se guardiamo ai nostri più vicini competitor, a parte la Germania che ha circa quasi il 70% degli hotel che hanno Wi-Fi gratuito, il Regno Unito ha il 66%, ma i nostri più diretti, insomma i vicini di casa, quindi se guardiamo anche a livello turistico, la Francia e la Spagna sono poco sopra noi. Siamo al 58-59% per Francia e Spagna, noi siamo al 58,5%. È comunque un problema, perché c'è un 40% e più di hotel che non hanno compreso l'opportunità che esiste anche per superare paesi a noi vicini. Secondo lei, Ghiringhelli, qual è il motivo per cui ancora fatichiamo a risalire questa classifica? In Italia noi abbiamo avuto negli scorsi anni un problema di arretratezza tecnologica. Lei si ricorda, l'anno scorso anno avevamo appunto parlato di quanto fosse necessario poi una serie di investimenti in ambito alberghiero per far sì che poi la tecnologia riuscisse a fornire un certo tipo di servizio. Oggi diciamo che buona parte degli hotel che hanno già fatto degli investimenti tecnologici stanno continuando a rinnovarsi. Il grosso problema è che ci sono ancora molti hotel che da un punto di vista tecnologico non sono ancora adeguati, quindi può essere che magari il Wi-Fi esiste, ma esiste in una logica molto più ridotta in termini di capacità di gestire un numero di utenti elevati, e quindi questo poi crea problemi legati all'uso di un Wi-Fi che poi fondamentalmente non funziona. A mio avviso però oggi la situazione è un po' cambiata rispetto all'anno scorso, nel senso che non si tratta più solo ed esclusivamente di un problema di tecnologia, probabilmente incomincia a esserci un problema legato il fatturato. Mediamente in Italia il fattore di riempimento delle camere disponibili di un hotel oscilla intorno al 55%, quindi noi abbiamo un 45% di camere che normalmente rimane vuoto. Capite che è assolutamente necessario per un albergatore cercare di fare il massimo per andare a trovare delle nuove fonti di revenue, quindi di guadagno. E quindi per fare questo diciamo che gli albergatori hanno l'obiettivo anche di rendere più agevole possibile, quindi di migliorare l'esperienza di viaggio dei turisti e dei manager in trasferta. Quindi molto spesso ci si rifà una logica di wifi per dire ok, siccome serve, allora lì sono sicuro di avere una fonte di guadagno sicuro. Sì, ma fonte di guadagno intende un guadagno dovuto al fatto che se io ho il wifi vendo più facilmente le camere, vengono nel mio albergo i clienti, o nel caso in cui io faccia pagare il wifi, e non so poi quanti in effetti paghino per avere wifi in camera, guadagno da quel business? No, la logica è proprio di guadagnare da quel business, perché loro fanno accordi flat naturalmente, quindi con dei costi direi abbastanza contenuti, e cercano naturalmente di vendere poi ogni ora di accesso alla rete con un costo direi abbastanza elevato. Qui il problema però è proprio quello che lei ha detto all'inizio, ovvero che il wifi oggi per chi si reca in albergo è come se fosse il bagno nella camera, per cui oggi non dobbiamo più pensare al wifi come un servizio a valore aggiunto, bensì come una necessità assolutamente importante, imprescindibile, per cui questa deve essere assolutamente inclusa nel costo della camera. Esatto. Vi sono altre fonti di revenue che a nostro avviso, insomma, diciamo dall'alto del nostro osservatorio Super Partes sul territorio mondiale, direi che vi sono altre opportunità per gli albergatori che dovrebbero incominciare a considerare. La vera sfida, a mio avviso, si gioca su due livelli distinti. I veri servizi a valore aggiunto, e quindi parliamo per esempio un servizio di colazione on demand a partire dalle 4 del mattino sino alle ore 11:30 della mattinata. Questo perché? Perché molto spesso, e lo vediamo anche noi in prima persona, sempre di più l'uso delle low cost ha preso piede all'interno della nostra quotidianità, quindi molto spesso accade che questi vettori partono la mattina molto presto. Ora, se un albergatore offre normalmente una colazione a partire dalle ore 7 o quando proprio va bene dalle 6:30 della mattina, in realtà se alle 6:30 mi parte il low cost per andare in una destinazione sia di business che di leisure, io la colazione non la farò mai. Certo. Quindi lì probabilmente sono anche disposto a pagare qualcosa in più laddove mi dici che per un servizio fatto magari in camera alle 4 del mattino riesco a guadagnare qualche soldo in più e riesco ad accettare il fatto che tu albergatore me lo faccia pagare. Sì, sì. Piuttosto che per i businessmen che usano sempre, fanno commuting su determinate città, ci potrebbe essere un servizio di lavanderia durante il weekend. Perché io devo portarmi la valigia avanti e indietro il venerdì sera e poi lunedì mattina me la riporto? Io offro un servizio in cui ti dico: guarda, non ti preoccupare, ti lavo tutto io, tu la mattina del lunedì, anzi la sera del lunedì quando fai check-in, ti faccio già trovare tutte le robe in camera. Questi sono i servizi dove probabilmente la gente avrebbe voglia di pagare, perché effettivamente ne capisce il beneficio. Sì, molto chiaro e molto interessante. Voi fate questa classifica sul wifi perché soprattutto per chi viaggia per lavoro, e questi clienti sono molto interessanti per il vostro sito HRS, questo servizio è naturalmente molto importante e fondamentale. Esiste, secondo l'analisi che voi fate di anno in anno, un rapporto tra wifi che funziona, perché anche questo è un altro elemento importante, e business generato nell'albergo? Cioè se ho un wifi e funziona bene, vedo il beneficio in termini di camere vendute, di fattore di riempimento dell'albergo? Non ho dati a disposizione precisi su questo, però quello che vi posso dire è che HRS come portale ha la possibilità di richiedere a chi ha soggiornato presso le strutture che noi rappresentiamo di lasciare delle indicazioni, delle recensioni su la propria permanenza in quell'hotel, e molto spesso vediamo che soprattutto chi viaggia per business, una delle cose che diciamo fa rilevare a tutto il mondo internet è proprio che in quell'hotel c'è la presenza di un wifi gratuito e magari anche di qualche spazio di business adeguato per poter lavorare, e questo fa sì che naturalmente la visibilità di questi albergatori aumenti e quindi vengano scelti in maniera diciamo principale rispetto ad altri che magari la il wifi gratuito non lo stanno utilizzando. Quindi assolutamente devo dire che il wifi è un elemento poi di scelta che permette quindi di far aumentare il traffico direttamente su quelle strutture che offrono la gratuità. Molto bene, Gringhelli, io la ringrazio come sempre per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, a presto. Grazie, la saluto, arrivederci. Alcuni di voi sapranno che da questa settimana, la EASA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza del Volo, ha dato il via libera alla possibilità di tenere accese tutte le connessioni del nostro smartphone per tutta la crociera, per tutta la fase del volo, quindi sia in partenza sia in fase di rullaggio, decollo, volo e atterraggio. Allora, questa è una novità che era già stata lanciata negli Stati Uniti, il tutto diciamo che serve fino ad un certo punto nella situazione attuale, servirà quando a bordo degli aeroplani ci sarà la connettività Wi-Fi. E poi bisognerà naturalmente aspettare che le compagnie adeguino i propri standard a questa regolamentazione, quindi le regole permettono di fare questo, ma poi ogni compagnia dovrà adottarle. Quindi prima di tenere accese le connessioni, prima di tenere acceso lo smartphone e non metterlo in modalità aerea, controllate che appunto la compagnia sulla quale viaggiate lo permetta. Allora, a questo punto attendiamo che in Europa, e non sarà un processo rapidissimo, si diffondano gli aeroplani con connettività Wi-Fi a bordo. L'unica compagnia che però non è esattamente europea è norvegese, la Norwegian, ha tutta la flotta, e mi pare che siano 35 aeroplani, che ha già Wi-Fi a bordo, la offre in alcune tratte europee. Per quanto riguarda invece i voli europei, non mi risulta che ci siano compagnie che lo offrono, almeno intra Europa. Esistono invece compagnie aeree, anche europee, come Lufthansa, che offrono questo servizio nelle destinazioni intercontinentali. Allora, per quanto riguarda le destinazioni intercontinentali, esistono appunto grandi aerei che offrono connettività Wi-Fi a bordo, quindi uno apre il proprio laptop oppure il proprio tablet o anche lo smartphone, si connette al Wi-Fi di bordo dell'aeroplano e il Wi-Fi di bordo dell'aeroplano va a prendere internet via satellite, quindi si collega con alcuni satelliti mentre transita in giro per il mondo e la connessione satellitare appunto quella che serve per connettersi ad internet. Altro discorso invece è quello che succede negli Stati Uniti, molto interessante, su molti aerei negli Stati Uniti è abbastanza diffusa la connessione Wi-Fi, quando parliamo di tragitti aerei all'interno degli Stati Uniti. In quel caso il principale provider di connettività è un provider che ha installato antenne terrestri in tutti gli Stati Uniti che sono rivolte verso l'alto, si connettono agli aerei e forniscono connettività internet agli aerei. Poi all'interno degli aeroplani stesso discorso, c'è una bella bolla Wi-Fi, un bel network Wi-Fi e uno a bordo dell'aereo si connette al Wi-Fi. Attenzione perché questi collegamenti non sono spesso gratuiti, solitamente negli Stati Uniti conviene pagare a terra e non pagare a bordo perché costa meno pagando prima a terra, e poi si possono fare anche degli abbonamenti, se uno viaggia molto si fa un bel abbonamento mensile, comunque non sono a buon mercato sicuramente, ma se uno ha necessità di connettersi è una buona soluzione. La connettività, per quanto mi risulta, ma per quanto io ho provato parecchie volte, è ottima, insomma, si naviga tranquillamente a 10.000 metri di altezza. Stesso discorso vale per la connessione satellitare, ho fatto piuttosto, insomma, molte tratte dove mi sono connesso senza grandi problemi. Avevo utilizzato anche una decina di anni fa Connection by Boeing, che poi è fallita, però insomma adesso nuovi servizi stanno prendendo piede. Vedremo in Europa che cosa succederà, questa è sicuramente una prospettiva interessante. C'è anche chi ha detto è finito l'ultimo luogo dove non c'era wifi a bordo, dove non c'era connettività internet a bordo, nel giro di poco tempo scomparirà. Adesso è con noi Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato 2024, per parlare di sistemi audio multiroom. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Poche settimane fa dall'IFA di Berlino tu ci raccontavi del vero e proprio boom di sistemi audio multiroom, multistanza per la casa in tecnologia wifi. Ne avevi già parlato forse addirittura un paio di anni fa, quando cominciò ad uscire forse il primo modello. Sonos è stato il primo, la prima marca a credere in questo, in questi nuovi sistemi. Addirittura fa praticamente solo quello, cioè il brand Sonos fa soltanto sistemi audio multiroom wifi. È stato il primo a credere. Noi anche abbiamo creduto, vista l'incredibile facilità di utilizzo, l'incredibile comodità di utilizzo. Allora, quando facilità e comodità di utilizzo vanno di pari passo, beh, le cose sicuramente ci interessano. È una premessa per il successo. Tu poi spieghiamo di che cosa stiamo parlando, come funzionano questi apparecchi, questi strumenti. Tu credi, stiamo vedendo effettivamente un boom del mercato, perché molti produttori di sistemi audio, di sistemi wifi, si stanno buttando in questo settore. Tu credi che questo sarà il sistema che noi utilizzeremo per ascoltare audio, quindi la musica e anche la radio, come Radio 24, in casa, nel futuro? Io credo assolutamente di sì, ovviamente con un processo diffusivo, quindi incominceranno a diffondersi e prenderanno sempre più piede. E credo che comunque il destino è quello, anche in pochi anni, di una sostituzione quasi completa, non tanto dell'installato, che finché funziona diciamo resta lì, ma nelle vendite sicuro, dei sistemini audio hi-fi tradizionali, quelli con i display, con le manopole, con i pulsanti. Ecco, quelli dovremo dimenticarceli, ma io devo dire che a mio avviso è anche un po' segno dei tempi, ma anche una fortuna. E la fortuna perché certe cose, certe interfacce, il cassetto del CD, tanto per intenderci, ci servirà sempre meno, probabilmente attendere non ci servirà più. Tutto diventa file, tutto diventa liquido, addirittura streaming. Tutti quelli nati negli ultimi anni non sanno nemmeno che cos'è. Praticamente no, e quindi non serve più avere un apparecchio che ha le manopole del volume, per esempio, sì, perché tutto si comanda con lo smartphone, o col tablet, altrimenti già si fa anche con i sistemi hi-fi tradizionali, cioè molti che hanno il collegamento di rete hanno anche la propria app per il controllo. Questo è lo step successivo, quindi il fatto di abbandonare completamente quel tipo di interfaccia per andare verso un'interfaccia virtualizzata sugli smartphone e sui tablet, in modo tale da avere un controllo anche più semplice, soprattutto perché non dobbiamo più solo controllare il volume o l'ingresso. Oramai sul sistema, che sono sistemi connessi, bisogna anche scegliere che canzone sentire, certo, quale artista, fare le ricerche e quindi farlo con i vecchi display e con i vecchi telecomandi non ha più senso. È diventato molto scomodo. Allora, un po' di ABC. Stiamo parlando, abbiamo detto, di sistemi audio, quindi per ascoltare cose. Sì. Multiroom, quindi multistanza, immaginiamo una casa, come funzionano, che cosa sono? Intanto guardandoli sono degli apparecchi... Sono degli speaker, diffusori. Dei diffusori. Infatti uno dei limiti è che in negozio non raccontano precisamente che cosa sono da soli, nel senso che appoggiati lì sembrano degli speaker, sembrano delle docking, mi viene da dire, come ne abbiamo viste tante in questi anni, docking Bluetooth, però non spiegano bene che cosa fanno. Innanzitutto, dicevamo, sono degli speaker e noi stiamo parlando di multiroom, ma chiariamo, anche uno solo portato in casa funziona, monoroom ovviamente, cioè su una stanza sola, non c'è bisogno di averne tante. Il vantaggio è che se io ne porto a casa più di una, anche in tempi diversi, posso gestire l'ascolto in multiroom. Cosa vuol dire? Vuol dire che posso sentire due cose anche disgiunte in due stanze o più stanze diverse, n cose disgiunte in n stanze e ovviamente come se fossero tanti impianti separati, oppure posso dire allo speaker di sincronizzarsi con altri e mandarmi lo stesso messaggio musicale contemporaneamente in diverse stanze con volumi differenziati da stanza a stanza, quindi posso scegliere singoli volumi, e in perfetto sincrono. Cioè, il grande problema dei sistemi multiroom storici è che o erano cablati, quindi funzionavano con un amplificatore centralizzato, o se si voleva farli funzionare via rete, parlo di primissimi sistemi, molte volte c'era il problema del perfetto sync tra una stanza e l'altra. E quando si sentono due messaggi, faccio l'esempio, molti hanno due televisori o più televisori in casa. Il televisore, magari della cucina, ha un processing video che impiega qualche millisecondo di meno o di più di quello del salotto. Sentire la stessa trasmissione anche con un piccolo ritardo audio che arriva mentre passi da una stanza, all'altra, quando si è in mezzo, è molto fastidioso. Ecco, questi sistemi garantiscono, ovviamente sono stati fatti dei protocolli per una sincronia perfetta, l'emissione contemporanea su tutte le stanze. Cosa succede? Io voglio sentire una canzone, metto sulla canzone, la distribuisco nelle diverse stanze, posso anche regolare appunto i volumi, e poi incomincio a girare per casa e ho una percezione della musica veramente diffusa, che è molto piacevole anche quando si fanno dei mestieri in casa. Ecco, non è il caso del multiroom, non è il caso dell'ascolto dove mi metto sul divano col cognac a fare l'ascoltone come si faceva una volta. Ecco, è una cosa più disimpegnata, no? Sto facendo altre cose in casa, voglio sentire il podcast di Radio 24, lo lancio e dovunque mi sposto lo sento, ma lo sento molto meglio rispetto ad avere un impianto solo, perché quando io giro per casa e voglio sentire della musica con un impianto solo, lo stereo di casa, devo accendere lo stereo probabilmente a un volume non moderatissimo, se no nella stanza lontana non sento niente, più niente. E anche quello che sento alzando il volume nella stanza lontana non è un qualche cosa che assomiglia lontanamente all'alta fedeltà. È una cosa che è mediata dall'ambienza di due o tre stanze, un corridoio, e quindi si sente molto meglio così. Volumi più bassi e più distribuiti. Più distribuiti. Senti, e poi in modo molto semplice, perché non devo fare un impianto incredibile. Tutto Wi-Fi, giusto? Allora, è tutto Wi-Fi, quindi questi apparecchi si collegano solo alla corrente elettrica. Quindi hanno un cavo, quello ci va per forza, perché dentro la cassa c'è anche l'amplificatore, c'è anche tutta la logica, l'elettronica del sistema, perché è un sistema hi-fi, però è completamente integrato nella cassa. Certo, la presa della corrente c'è, ma le prese delle correnti sono distribuite dovunque nella casa, quindi è molto più facile. Prendo attacco, non solo prendo attacco, ma anche prendo attacco, stacco e sposto. Quindi banalmente ho amici sul terrazzo o sul balcone, prendo, stacco il mio speaker temporaneamente magari dal salotto, lo porto sul balcone e ho un po' di musica anche quando ho gli amici in casa, piuttosto che a patto che la wifi arrivi, per chi ha magari una casa con un giardino, qualcosa, può portarlo, non so, magari chi in box, quindi insomma io compro il primo prodotto, posso magari accontentarmi per un po' di una sola stanza, che ne so, la cucina, poi decido di acquistarne altri e posso metterne uno nello studio, uno nel salotto, uno nella camera da letto, eccetera eccetera. Il primo è collegato ad internet, anche quello in wifi, e poi tutti gli altri a loro volta si connettono in wifi con il principale, giusto? Poi dipende da marca a marca, ci sono delle architetture, delle logiche di architettura leggermente diverse, ma la sostanza è assolutamente questa. E quando l'unico vincolo che c'è in tutto questo scenario, che non esiste uno standard di comunicazione condiviso tra diversi produttori. Ah, quindi marca con marca. Quando io inizio con una marca, vado avanti con quella marca. Questo è un momento molto fluido. Dicevamo, il vero boom degli speaker Wi-Fi è stato all'IFA di Berlino adesso, ma è un boom non commerciale, nel senso che ancora un boom tecnologico. Quello che si venderà, bisogna capirlo col registratore di cassa. Tutti i produttori ne hanno presentati, adesso bisognerà vedere quali verranno capiti e quali verranno anche successo, promossi in maniera corretta. Grosso modo stiamo parlando di prodotti che costano quanto? Ma diciamo che quelli un po' più piccoli sono tra i 150 e i 200 euro. L'uno. Sì. Ecco, vuol dire che tutto sommato con la spesa, una spesa sotto i 500 euro, probabilmente si riescono a fare tre stanze. Sì. Non è economicissimo, però bisogna comunque tenere presente cosa c'è in questi apparecchi. In questi apparecchi c'è c'è tanta cosa, non c'è soltanto l'altoparlante, che mediamente parlo dei prodotti che abbiamo provato, stiamo provando, che sono già sul mercato, mediamente suonano bene, benino. Quindi sono, certo, mediamente di buona qualità. Sì, dobbiamo paragonarli alla dimensione dello speaker, che generalmente è contenuta. Però per un ascolto in ambiente, io devo dire, è godibilissimo. Sì, sì. No? E quindi non sarà certo l'ascolto hi-fi, stereo, con le casse da pavimento, con amplificatori molto potenti, ma il cui costo di questi sistemi è di migliaia di euro. Sì, certo. Ecco, quindi non possiamo confrontarli con quel diverse. Tipo. Sono due cose diverse. Poi ci sono anche delle soluzioni, magari ne parleremo, per tenere insieme entrambe le cose. Dunque Gianfranco, facciamo un esempio di come funziona. Come funziona? Arrivo, attacco lo speaker alla corrente e lancio l'app corrispondente, che è gratuita, quindi ogni produttore ha la sua. Per Sonos lancio l'app di Sonos e vado in modalità ricerca dispositivo. L'app mi dice: premi un tasto sul tuo dispositivo. Si preme un tasto sul dispositivo, la sincronia è fatta, quindi l'app sa che esiste quel dispositivo. Al massimo viene fatta qualche altra domanda in più, per esempio: che nome vuoi dare al dispositivo? Invece di chiamarlo speaker 1 o cucina, lo chiamo cucina, sì, salotto, sì. Cioè, in modo poi tale posto che non capisco più niente, quello sì, certo. In però modo tale che quando ne ho diversi riesco a indirizzare la musica, certo, dove, certo, voglio, certo. E poi che cosa bisogna fare? Ecco, per chi vuole e per chi non vuole rinunciare comunque a un layout stereo, può anche comprarne due per la stessa stanza, e quando fa il battesimo, l'accoppiamento iniziale, il battesimo, sì, di queste, li battezza tutte e due, ma li associa alla medesima stanza e dice: questi sono della stessa stanza, questo è il canale destro, questo è il canale sinistro. Di lì in poi quei due speaker lavoreranno automaticamente in maniera accoppiata con un layout stereo. Ok. Facciamo l'esempio pratico così capiamo. Io ho fatto tutto il mio accoppiamento, ho installato eccetera eccetera, ho il mio smartphone, se voglio ascoltare la musica cosa devo fare? Allora si va sull'app del sistema, sì, e sull'app del sistema ci sono tutte le sorgenti disponibili. Quali sono le sorgenti disponibili? Allora, innanzitutto tutto quello che c'è sullo smartphone o sul tablet. Perfetto. Quindi i contenuti che abbiamo già su smartphone e tablet, in questo caso vanno in streaming dal device. È una modalità che io ritengo un po' meno intelligente, perché lascia il device impegnato. Sì. Cioè, il device, per quanto fare uno streaming a schermo spento non sia un consumo enorme, ma comunque continua a comunicare e quindi drena un po' le batterie del telefono, come accade nelle docking Bluetooth, per esempio, no? Quando, sì, io collego il telefono. Ecco, questo, se si può evitare, meglio. No? Altro e i sistemi sistema? Wi-Fi permettono di evitarlo, come per esempio, restiamo sempre nell'ambito locale di casa, posso prendere i file che ho o su un NAS, quindi su un'unità di rete, un servirino di rete, una disk di rete, o su un computer che ovviamente in quel momento deve essere acceso, certo. In alcuni casi c'è un programmino da caricare, in altri, vabbè, no, insomma, comunque, okay, tutto quello che ho sul computer come file musicali per esempio è riproducibile. Perfetto. Posso navigare il mio catalogo, vedere i titoli, gli autori, navigarlo per tracce. E a questo punto uno potrebbe dire, in questa situazione uno potrebbe anche non essere collegato ad internet, potrei, sì, anche non avere il collegamento ad internet attivo, però, sì, però danno il meglio di sé quando? Quando sono collegati a internet, per il primo motivo è per gli aggiornamenti firmware che ogni tanto arrivano e che vanno fatti. Il secondo motivo fondamentale è per tutto quello che internet offre. Allora, tutte queste app sono sincronizzabili, diciamo così, come a livello di account, con i servizi di streaming, Spotify, Deezer e così via. Quindi se io sono un abbonato a Spotify, serve l'abbonamento, quello a pagamento, perché questi sistemi funzionano come device mobili, quindi per esempio Spotify offre la scelta libera delle canzoni sui device mobili soltanto se con si paga l'abbonamento. Ecco, però pagando, quindi questi 10 euro al mese fondamentalmente più o meno sono. Però possiamo tutti pensare tutti nel servizi, che nel futuro questi servizi, ci saranno altri servizi che nasceranno e magari alcuni saranno completamente liberi gratuitamente. Insomma, perché quindi, no? Ecco, qualcosa c'è per esempio sul, esatto, fronte delle radio. E in questo modo io posso dall'app, metto all'interno dell'app l'account, sì, specifico, e posso navigare tutto il catalogo per esempio Spotify. E la musica arriva direttamente da internet. O Deezer. A quel punto il device, lo smartphone e il tablet funzionano solo come un telecomando. Cioè io scelgo la musica che voglio che Spotify mandi al mio speaker, o meglio parlo con lo speaker a livello logico e gli dico vai su Spotify a prenderti quella musica, e poi ci pensa lui. Io intervengo di nuovo sullo smartphone solo se voglio cambiare la mia playlist o la musica che ho programmato. Dopodiché, dopo che ho lanciato la musica, lo smartphone non fa niente. Quindi potrei anche spegnerlo, potrei anche andarmene volendo. E questo è il grande vantaggio. È lo speaker, il sistema che lui autonomamente va su internet e va a prendersi da Spotify con le mie credenziali la musica che ho impostato e me la riproduce. Questo libera lo smartphone da qualsiasi vincolo, problema, impegno. Arriva anche una telefonata, non si interrompe la riproduzione, mi sposto, se voglio la interrompo, ma se no no, e magari i miei familiari vanno avanti a sentire la musica non è solo perché è arrivata la telefonata sul mio device che si ferma tutto. Quindi è la situazione più bella, più facile e che garantisce la maggiore flessibilità. E poi ci sono tutte le radio online, in streaming, quindi online. Puoi ascoltare Radio 24, anzi direi puoi ascoltare i podcast. Ecco, io ascolto Radio 24 con questa modalità a casa mia. Ormai ho nel tempo quanti ne hai di questi speaker? 7. Ahia, però anche i due bagnetti, uno piccolo perché è molto bello magari fare la doccia semplicemente, oppure quando si gira per la casa fare una modalità party cosiddetta, per cui tutti gli speaker vanno in sincrono sulla stessa musica, e quindi ascoltarsi la musica o semplicemente ascoltarsi il podcast di 2024 o ascoltarsi la diretta di Radio 24. Sì. Ecco, questo si può fare molto facilmente e quindi è molto comodo. Ma mi viene da dire quasi non finisce qui. Ah. C'è un ponte verso i vecchi mondi. Quindi alcuni di questi speaker, non tutti, quelli magari un pochino più bellini, dispongono anche di un ingresso tradizionale, un ingresso di linea, è un mini jack generalmente, al quale posso collegare una sorgente qualsiasi. Quindi se io ho un magnifico, che ne so, lettore CD, potrei collegarlo. Perché no? Oppure, ho visto alcuni collegare il TV come ingresso. Perché? Perché dice, sì, c'è il TV in sala, ma il telegiornale si può vedere... Ma però alcune volte, sì. come fosse quasi una radio, do un colpo d'occhio, ma posso anche sentirlo. E se sto girando per la casa, mi metto l'audio del TV in tutta la casa. Cioè, quello che entra da quell'ingresso poi può essere ridistribuito su tutta la casa. Sì. Quindi il vantaggio è anche, come dire, la compatibilità all'indietro di questi sistemi, perché consentono anche di integrare le sorgenti analogiche tradizionali e di ridistribuirle in digitale su tutti gli speaker. Sì. Senti, abbiamo parlato in alcune occasioni di qualità della musica liquida che si trova su internet. Ci siamo lamentati del fatto che ancora oggi non ci sono servizi o ce ne sono pochissimi che garantiscono una qualità uguale a quella del compact disc, che ancora è lo standard di riferimento. Allora, in attesa che tutti i servizi di streaming musicale si adeguino e quindi aumentino la qualità, ti faccio una domanda sulla qualità non tanto delle speaker in sé, perché ogni marca avrà le proprie caratteristiche e ci sarà anche all'interno di ogni marca una differente tipologia di qualità di prodotto. La connessione Wi-Fi garantisce qualità? Perché io, pur non essendo un pazzo audiofilo, però parlando con quelli che bazzicano in questo mondo, c'è una mania dei cavi, dell'importanza del cavo, della connessione. Cioè, Wi-Fi garantisce la qualità? Allora, Wi-Fi è in qualche modo trasparente rispetto alla qualità, perché non viene ricodificato il file audio. Quindi il file audio viene inviato sul supporto, fatemi parlare di supporto, rete wireless, ma è come se fosse solo un semplice trasporto del file, e arriva allo speaker che lo decodifica e lo riproduce. Quindi dipende dalla qualità dello speaker. Quando potrebbero esserci problemi? Quando la qualità del file è talmente alta, magari un file non compresso, che richiede una banda un pochino più importante su una Wi-Fi un po' scadente. Allora, a quel punto non è che la qualità degrada, semplicemente si sente a strappi o non si sente. Ah, sì, sì. E quindi a quel punto è l'infrastruttura Wi-Fi che va potenziata. Questi sistemi generalmente riproducono anche i file FLAC, quindi file non compressi o diciamo compressi senza perdita, quindi sì. Diciamo equivalenti al CD, in alcuni casi anche superiori al CD, perché hanno una codifica, una profondità di bit e una frequenza più elevata, più alta. Quindi qui però dipende dalla qualità dell'infrastruttura. Sì. Si possono, per esempio, connettere anche con il cavo Ethernet? Si possono connettere anche col cavo Ethernet. Volendo, diciamo. Sì, certo. Chi ce l'ha è assolutamente consigliabile, perché a quel punto ha un'infrastruttura più solida e sicuramente meno soggetta anche a dei disturbi. Sapete che cioè, un Wi-Fi è sempre una piccola incognita, perché lo spettro, soprattutto quello di 2,4 GHz, è molto inquinato. Affollato, anche sì, da altre cose che non c'entrano niente con Wi-Fi. E banalmente basta, faccio sempre questo esempio, basta che un vicino di casa, che fino allora era stato silente in termini di Wi-Fi, accenda una Wi-Fi proprio sul mio stesso canale, che probabilmente la Wi-Fi di casa degraderà pesantemente le proprie prestazioni. Ecco, stiamo parlando però di reti Wi-Fi che oramai generalmente reggono degli stream video. Ecco, lo stream audio è ovviamente molto più leggero, quindi chi avesse una Wi-Fi che non regge un traffico audio probabilmente deve rivedere la propria Wi-Fi, ma mi viene da dire a prescindere, certo, anche perché tutto il resto delle prestazioni, delle cose che sempre più si potranno fare con le Wi-Fi, non potrà farle. Dunque, altra domanda: io ho due magnifici diffusori in casa, posso in qualche modo integrarli in un sistema del genere o stiamo parlando di due mondi separati? Allora, puoi integrarli sicuramente, anzi io consiglio di integrarli. E integrare sia gli impianti Hi-Fi a cui uno non vuole rinunciare, oppure integrare semplicemente magari i diffusori, perché i diffusori invecchiano molto meno delle elettroniche. Le elettroniche impianti Hi-Fi migliorano col tempo. Come il vino. Beh, per certi versi sì. I primi momenti, diciamo, i diffusori devono essere rodati anche loro. Quindi ecco, si può fare, e anzi direi di farlo, quando uno non vuole rinunciare al proprio impianto o ai propri diffusori, e magari le elettroniche sono diventate vecchie, magari sono anche da cambiare, ma i diffusori magari no. E si fa con degli apparecchi specifici. Normalmente i produttori di questi sistemi Wi-Fi audio offrono anche altri due componenti, sempre integrati nei loro sistemi. Uno è di fatto un amplificatore, quindi integra tutta la logica che c'è in uno speaker Wi-Fi senza lo speaker. Ha le uscite con i classici morsetti delle casse. Basta attaccare due cavi delle casse a questo amplificatore e di colpo le nostre casse diventano parte di un sistema Wi-Fi, e quindi possono suonare da sole tutte le sorgenti di cui abbiamo parlato. Le posso comandare con lo smartphone? Assolutamente. Oppure possono anche suonare in sincrono con altre stanze. Quindi io per una stanza posso, dove ho già le mie casse, posso decidere di non comprare uno speaker, ma comprare soltanto la parte di amplificatore. Ovviamente, modulo di controllo. Un modulo di controllo amplificato. Così collego soltanto le casse. È chiaro che quelle casse vanno scollegate da un vecchio impianto, se esiste. Se invece voglio comunque mantenere anche il mio vecchio impianto, perché magari qualche CD qualche volta capita di sentirlo, allora posso comprare soltanto il modulo di collegamento, che è ancora un po' meno, cioè neanche la parte di amplificazione non c'è più, e ci sono soltanto le uscite pre, quelle classiche del cavetto Hi-Fi, pin RCA, il classico cavetto Hi-Fi. Ecco, questo modulo si collega a un ingresso dell'amplificatore esistente, l'amplificatore Hi-Fi stereo esistente, e quindi posso usarlo come fosse una sorgente come un'altra. Quindi a questo impianto vecchio avrò il mio CD, la mia radio, tutto quello che voglio, in più avrò anche questo modulo d'ingresso. Qual è la scomodità? Che il vecchio Hi-Fi non lo posso controllare via smartphone, certo, o tablet. Quindi devo andare lì, accenderlo fisicamente, metterlo fisicamente sull'ingresso che mi interessa, e dopodiché potrò ascoltare tutto anche però, in sincrono. Diciamo, però inserisco il vecchio impianto all'interno di una logica di sistema multiroom distribuito con un costo assolutamente contenuto. Non solo, se proprio voglio, visto che questi sistemi hanno anche l'ingresso, come dicevamo, posso anche collegare all'indietro il mio impianto Hi-Fi al sistema wireless. Perché? Per esempio, il mio CD. Sì, voglio sentire il mio CD in tutte le stanze, grazie a questo add-on, questa piccola aggiunta, io posso anche ridistribuire l'audio che sento sul mio sistema Hi-Fi e distribuirlo nel sistema multiroom, in tutte le stanze. Tutto questo, capite, senza tirare un cavo, senza bisogno di un installatore, senza difficoltà di configurazione, beh, questo è una vera rivoluzione. No? Noi siamo abituati negli anni a pensare, ancora qualche volta si sente dire il nome filo diffusione, no? Sì. Una volta, parlo degli anni 70, si è diffusa proprio la logica della filo diffusione, per cui viene messo un piccolo speaker in tutte le stanze, ovviamente cablato a filo, si sentiva lo stesso messaggio sonoro con lo stesso volume in tutte le stanze, non si poteva scegliere né niente, ed era un impianto che andava fatto in fase di strutturazione della casa, se no non si poteva fare più. Addirittura lo vendeva l'allora SIP, perché utilizzava i cavi telefonici anche per distribuire quest'audio, che però aveva una qualità... Che è ancora attivo in alcune zone d'Italia, però non così elevata. Perché ovviamente il segnale audio era modulato sul doppino telefonico, quindi sappiamo qual è la banda utilizzabile. E quindi, e poi in analogico, non in digitale. Quindi è veramente una rivoluzione alla quale noi crediamo moltissimo, e il pubblico crede moltissimo. In questo momento la maggiore diffusione di questi sistemi è virale. I negozi stanno dimostrando non sempre capaci di spiegare un prodotto di questo tipo. Abbiamo visto, ci vuole, per spiegare tutto a un utente che non è a conoscenza, ci vuole una ventina di minuti. Sì. Quelli che più o meno ci abbiamo messo noi, o forse qualcosa di più, per spiegare come funzionano questi sistemi. In negozio difficile che ci sia qualcuno che per 20 minuti ti spiega questi sistemi. Il maggior modo in cui si stanno diffondendo è virale. Vado a casa dell'amico, lo vedo, sento. E dico, no, ascolta, spiegami un attimo come funziona. Anche io. E a quel punto si diffonde. Quindi se potessimo vedere la diffusione proprio geografica di questi sistemi, vediamo che si sta diffondendo proprio partendo da alcune aree e pian piano sta invadendo tutta l'Italia. Io sono convinto che nel giro di qualche anno non esisteranno più i sistemini Hi-Fi come siamo abituati a concepirli. Allora, tu hai citato Sonos e così concludiamo questa panoramica, però abbiamo detto che quasi tutti i produttori stanno proponendo impianti di questo genere. Facciamo qualche nome, tutti i produttori forse no, ma magari i più importanti. Samsung ha degli speaker a forma triangolare, uno piccolo e uno grande, molto belli. Panasonic, quindi stiamo parlando dei grandi marchi, anche lui è uscita con una serie proprio all'IFA di questo tipo. Denon ha una serie molto importante. La differenza dove sta? Ecco, non bisogna limitarsi né all'estetica e neanche al suono, limitarsi, ascoltarli di certo, la qualità cambia, ma una cosa importantissima è l'app. Cioè l'app è la vera interfaccia con la quale si ha a che fare. Allora, alcune di queste app sono tutte liberamente scaricabili gratuitamente, sia per si possono iOS provare che per Android, e hanno delle modalità demo molte volte. Ovviamente non suona niente, certo, ma si può vedere l'interfaccia com'è, si può capire se è usabile o non usabile, perché la vera cosa con la quale l'utente poi deve interagire è l'app. Quindi nei negozi, nei migliori negozi, questi sistemi sono quasi sempre dimostrati, proprio perché sono difficili sennò da spiegare, sono dimostrati con in funzione, con un device a fianco sul quale è possibile selezionare la musica. Ecco, perdere 10 minuti per ognuno a provare, a simulare di lanciare la musica, anzi in realtà lì non si simula, in negozio si sente anche la musica, è molto utile per capire qual è il sistema da sposare, perché come dicevamo, una volta scelto un marchio bisogna proseguire con quel marchio, perché sennò il sistema multiroom poi non funziona più. Però si può anche partire con un apparecchio solo, ma la scelta la si fa all'inizio, quindi studiatevi l'app, guardate bene l'app, quella che fa per voi, quella che offre i servizi, e la vera differenza proprio in termini di interfaccia è tutta lì. Certo, e leggete anche tutte le prove che avete fatto su dday.it. Che continuiamo a fare, perché ne stanno arrivando di nuovi. Bene Gianfranco, grazie per essere stato con noi, a presto e buon weekend. Grazie mille. Chiudiamo questa puntata di 2024 con uno sguardo alla prossima settimana, un appuntamento che ci vedrà coinvolti, lo seguiremo come gruppo 24 ore anche con Radio 24. Between organizza ogni anno alla fine dell'estate un appuntamento con i principali player del mercato della tecnologia, delle telecomunicazioni in Italia. Quest'anno è intitolato Cambiare per cambiare, si parlerà di tecnologia, si farà un po' il punto della situazione. Dicevo, è organizzato da Between, una società che si occupa di telecomunicazioni. Il presidente François de Brabant, benvenuto a 2024. Grazie, benvenuti a tutti. Naturalmente i temi sono tanti, i principali dell'economia digitale italiana verranno affrontati, ce n'è uno che è sicuramente molto nuovo, molto innovativo. Parlerete di sharing economy. Come mai? Per quale motivo? Ma perché è il risultato di cosa sta accadendo negli ultimi 8 anni. Cioè, negli ultimi 8 anni noi abbiamo, per la prima volta credo nella storia dell'umanità, abbiamo avuto la coincidenza di due potentissime forze. La prima negativa, e cioè la crisi. Una crisi che, partita nel 2008, si sperava fosse a V e invece è risultata ad L, il che vuol dire che non si torna più ai modelli di consumo di una volta e quindi cambiano i consumi e poi cambiano i modelli di business. Dall'altra abbiamo avuto una potentissima innovazione, e in particolare un'innovazione che ha portato nelle mani del consumatore, del cittadino, una potenza, e cioè di smartphone, che non aveva prima. Quindi l'incrocio di queste due forze, ripeto, la coincidenza temporale, l'incrocio di queste due forze ha cambi modelli di consumo, cambi modelli di business e quindi genera la sharing economy. La sharing economy non è una novità assoluta, perché in passato, voglio dire, il prestarsi le cose e la banca del tempo tra il pensionato e la mamma che aveva bisogno di andare a prendere il bambino a scuola, anche l'affitto delle camere, l'autostop, cioè sono tutte cose che avvenivano, ma avvenivano con i ritmi e i modi dei tempi di una volta. Oggi la georeferenziazione di domanda di un'esigenza e di una capacità di risposta a questa esigenza, prendiamo gli appartamenti in prestito e così via, è talmente veloce, è talmente potente che ha generato la sharing economy. Pensi che a Milano e a Roma, in entrambe le città, si sono apparse 1300-1500 auto in sharing economy in meno di un anno. Ecco, questo le dà l'idea del ritmo con cui questo fenomeno sta ingenerandosi. Venendo ai temi che coinvolgono anche la pubblica amministrazione e in generale tutto il sistema paese, secondo il vostro punto di vista quali sono le maggiori priorità? Ma dunque, Francesco Caio, quando è stato incaricato di occuparsi dell'agenda digitale del paese, quindi pochi mesi fa, disse: lo Stato o è digitale o sarà, o è digitale o non ci sarà, nel senso che ormai è evidente che bisogna veramente digitalizzare tutti i processi, questo sia per avere una spending review, cioè per avere dei risparmi, ma direi anche per avere una customer experience, e cioè, traduco, una facilità d'uso e di accesso ai servizi che la tecnologia consente, contrastando l'accumulo di burocrazia dei decenni e dei secoli passati. Cioè, ormai il fatto che non è pubblicità, ma la devo citare come esempio, cioè che con Amazon uno riesce a ottenere le cose con 3 click, diventa un punto di riferimento per cui poi non posso dover fare 22 click e perdermi in una customer experience per una qualsiasi pratica burocratica della pubblica amministrazione italiana. Quindi tutto deve essere semplificato, e questo credo che, soprattutto in questo momento, sia un enorme valore, perché aiuta a, come tanti vogliono e come tanti desiderano, cambiare la nostra pubblica amministrazione. Quindi anche qui Anche qui c'è questo fatto che il digitale ci consente e ci spinge, anche per confronti con servizi privati e global, di intervenire. Grazie a François de Brabant per essere stato con noi e buon lavoro, a presto. Salute a tutti. E così concludiamo questa puntata di 2024, quella che avete ascoltato è la versione podcast. Come sempre grazie per la vostra attenzione, per i vostri messaggi potete scriverci a 2024@radio24.it, utilizzare la nostra pagina Facebook o anche Twitter. La prossima settimana saremo in diretta dal Salone Nautico di Genova, quindi nel pomeriggio di sabato tra le 15 e le 16, come sempre. Quindi se volete venirci a trovare saremo lieti di salutarvi prima o dopo la trasmissione, magari non durante. Se volete suggerirci temi che possiamo affrontare la prossima settimana, visto che cercheremo di parlare anche di nautica, magari non per tutta la trasmissione, ma se ci fosse, insomma, ci saranno sicuramente temi interessanti da affrontare, li studieremo questa settimana per incontrare ospiti appunto tra 7 giorni. È tutto per questa puntata, appuntamento alla prossima settimana. 2024. Alcuni di voi sapranno che questa settimana la EASA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza del Volo, ha dato il via libera alla possibilità di tenere accese tutte le connessioni del nostro smartphone per tutta la crociera, per tutta la fase del volo, quindi sia in partenza sia in fase di rullaggio, decollo, volo e atterraggio. Allora, questa è una novità che era già stata lanciata negli Stati Uniti, il tutto diciamo che serve fino ad un certo punto nella situazione attuale, servirà quando a bordo degli aeroplani ci sarà la connettività Wi-Fi. E poi bisognerà naturalmente aspettare che le compagnie adeguino i propri standard a questa regolamentazione, quindi le regole permettono di fare questo, ma poi ogni compagnia dovrà adottarle. Quindi prima di tenere accese le connessioni, prima di tenere acceso lo smartphone e non metterlo in modalità aerea, controllate che appunto la compagnia sulla quale viaggiate lo permetta.